i rapper che adesso fanno house. Sì, house, techno, electronic pop, sì. Sì. Non so, sì. Oh, ma questa la lasciamo. Bella atmosfera, quanto è bello. A luci spente, senti solo le forme ma non vedi niente. A luci spente, sembra sensuale, una buona occasione. A luci spente, proprio come pensavo, è molto elegante. A luci spente, poi ci si pente di approfittare. A luci spente, perché puoi ritrovarti con certe sorprese. A luci spente, basta cercare locali. A luci spente, per le disgrazie che potresti ricevere. A luci spente, a luci spente, qui non passa gente, ma solo si sente musica decente. Rimorchiare non gli riesce, perché le più belle che si trova hanno la forma delle. Entra scimmiato si spengono le luci, incontra una che si chiama Lucy, poi la bacia ad occhi chiusi per poi scoprire che si chiama Lucifer. Scandalizzato si prende due drink, li beve a collo, dice magnifica il gol e music. Sei fantastico, ubriaco, marcio, pade con hey. Il tempo passa ballando con la donna, cugina, sorella, infine la nonna. In minigonna lui molto elegante, si eccita toccando qualcosa di grande. Nelle mutande c'è vero amore, qualcuno gli ha toccato il cuore. Ora qui si passa la notte, lui si è mostrato la sua grande dote. Momento non concreto, visibilità, rito capisci, domina il buio. I sintomi sono la lumiere. Movimento non concreto, visibilità. Nessuno aspettava, è arrivato, hey. Di fighe circondato, more bionde da lato a lato. Con lo smoking Gucci e un bel maloppo di soldi in tasca, gioielli dappertutto, che la metà della metà basta. Fico, aspetta fammi capire, chi ti dice che il maloppo non è in lire? Smoking Gucci con le ragnatele, quelle sono le sue sorelle. Mica le tipe rimorchiate, nulla di speciale, nessuno è l'amante. Nonostante ciò il suo cuore batte, per di più le paga rate. Va nella disco latina, a luci spente e a una si avvicina. A lei la chiamano l'assassina, pupa caliente, molto carina. E così va l'attacco, prende una gomma e si mette al posto il pacco. Questa non se la fa scappare, perché gli è consigliata a ratto. Cominciano a ballare, lui è eccitato, non fa che sudare. Per il caldo si comincia a spogliare, il sangue nelle vene ricomincia a pompare. Lei lo tocca, lui la tocca, ma arriva sotto e si sciocca. Sfiora qualcosa che non è il telefono e dopo scoperto il suo cuore si blocca. Movimento non concreto, visibilità, rito capisci, domina il buio. I sintomi sono la lumiere. Movimento non concreto, visibilità, rito capisci, domina il buio. Vamos sin luces. Bella atmosfera, quanto è bello. A luci spente, senti solo le forme ma non vedi niente. A luci spente, sembra sensuale, una buona occasione. A luci spente, proprio come pensavo, è molto elegante. A luci spente, poi ci si pente di approfittare. A luci spente, perché puoi ritrovarti con certe sorprese. A luci spente, basta cercare locali. A luci spente, per le disgrazie che potresti ricevere.